Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Oggi ritorniamo a parlare di mercati, un mercato che oggi, a giudicare da quello che sta accadendo in Europa questa mattina fra le borse appunto del vecchio continente, è un mercato che ha deciso di stare tranquillo. Borse che si stanno concentrando sulle trimestrali, una giornata che brilla con rialzi, pensate che sono adesso di 2,5 punti sulla borsa tedesca, Parigi più 2, Londra più 2%, Milano più 1,27%, poi vi racconterò le ragioni perché Milano guadagna meno delle altre piazze europee. È un mercato molto strano, lo è stato soprattutto questa settimana, perché lunedì, lo ricorderete, è andato profondamente giù di morale quando Standard & Poor's, la più grande ed importante agenzia di rating, ha emesso il suo outlook, la sua visione negativa sull'economia americana, promettendo anche una possibile bocciatura del rating, che rimane comunque ancora piuttosto elevato, e quindi appunto vi ricorderete lunedì borse tutte a picco su questa notizia. E poi è stato un mercato che è stato subito pronto a risollevarsi, cosa che sta accadendo questa mattina, quando sempre dagli Stati Uniti sono arrivate altre notizie. Le società statunitensi stanno rassegnando le loro trimestrali e quelle che lo hanno fatto ieri hanno particolarmente convinto il mercato. A parte Goldman Sachs, nel primo pomeriggio, nella tarda serata sono arrivati i risultati di Johnson & Johnson, quindi largo consumo per appunto la tecnologia Intel, IBM e Yahoo. I risultati sono piaciuti e oggi il mercato ha trovato appunto questa forte spinta da queste notizie. Questo però non significa che soprattutto in Europa vengano cancellate le preoccupazioni di fondo che riguardano le condizioni del debito sovrano. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, il Portogallo ha fatto formale richiesta di aiuto agli organismi europei per un'ottantina di miliardi di euro e poi nelle ultime ore è tornata di nuovo prepotentemente sotto i riflettori la Grecia. Perché la Grecia è in crisi ormai palese da un anno? Esattamente un anno fa, in maggio, avevamo cominciato a parlare della possibile bancarotta di questo piccolo stato dell'Eurozona. Adesso se ne ritorna a parlare, anche se non è che si sia mai sopita l'attenzione intorno alle condizioni della Grecia, perché si dà per scontata la necessità di ristrutturare il debito. Lo pensa il mercato, sì, ma l'Unione Europea continua a gettare acqua sul fuoco, dice che al momento questa circostanza non è ipotizzabile. E però insomma sembra invece abbastanza probabile che delle trattative sotterranee tra Atene e Bruxelles ci siano. Nessuno però le vuole al momento ancora confermare. Intanto il mercato cosa decreta? Rendimenti dei titoli greci che sono schizzati alle stelle. E questo è un po' il punto. Noi oggi vorremmo così spiegare ai nostri ascoltatori intanto che cosa significa ristrutturare il debito, perché quando parliamo in questi termini chiaramente a molti ascoltatori torna in mente una immagine piuttosto triste. È un fardello quello argentino che ancora pesa sulle spalle di molti italiani, e quindi ristrutturare il debito è un termine che evoca quanto accaduto proprio con l'Argentina, anche se non è questo l'unico paese che negli ultimi anni ha ristrutturato il debito. Stamattina sul Sole 24 Ore il collega Vittorio Darold ricorda quello che è accaduto, oltre che in Argentina, alla Russia, all'Uruguay, al recentissimo appunto Dubai, e quindi magari se riusciremo faremo anche un po' un paragone rispetto a queste situazioni. Questo è un po' il tema di cui ci occupiamo questa mattina. Che prospettive poi ci piacerebbe anche capire hanno le altre obbligazioni governative europee in questo momento, che fase stanno vivendo sul mercato, perché tutto sommato ancora per l'Italia si continua a viaggiare su acque tranquille, e però insomma questa crisi greca che tipo di altre conseguenze potrebbe avere. I nostri interlocutori di questa mattina con i quali parleremo di tutto questo, ovviamente anche se vorrete sollecitati dalle vostre domande all'800 24 00 24. Saluto e ringrazio per essere con noi Marcello Esposito, direttore investimenti di Banca Patrimoni Sella. Dottor Esposito, bentornata a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche a Luca Bagato, trader specialista sui mercati obbligazionari, amministratore unico di Macro Markets, che è una società indipendente appunto di analisi finanziaria. Bagato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Deborah. Bagato, lei sta tradando sui bond ellenici in questi giorni? Ma in questi ultimi periodi no, qualcosa ho fatto diciamo verso fine anno, sì. Però allora, siccome abbiamo scoperto che sul segmento della quotazione dei titoli di Stato della Borsa Italiana ci sono quotati una ventina di titoli greci, questa mattina vorremmo anche, spero che i miei ospiti mi aiutino a farlo, esprimere la raccomandazione di prudenza ai nostri ascoltatori che magari in virtù degli enormi rendimenti promessi sono tentati appunto di fare delle operazioni speculative su questi titoli. Fate attenzione, perché poi hai voglia a promettere che Bruxelles salva lo Stato, che la Banca Centrale Europea finanzia le banche della Grecia e quindi in qualche maniera viene garantita, anche se molto modesta e molto piccola, una certa liquidità a questi titoli. Poi nel momento in cui invece Bruxelles saluterà Atene, non vorrei che rimaneste con il cerino in mano come accaduto tanti anni fa con l'Argentina. Per cui mi raccomando, massima attenzione, possibilmente, se potete, da questo mercato state lontani. Allora, io vi ho ricordato il numero per intervenire in diretta, potete anche scriverci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Adesso vi ho già raccontato un po' quello che sta accadendo in borsa oggi, perché è stato il presupposto della nostra trasmissione. Vi racconto qualche storia di borsa di Milano, perché ce ne sono alcune eclatanti. La Popolare di Milano perde il 7%, questo gruppo deve fare un aumento di capitale, ne aveva parlato qualche settimana fa in consiglio di amministrazione, era stato detto di no, poi è arrivata l'ispezione, una lettera di Mario Draghi, il numero uno della Banca d'Italia, che ha invitato la banca invece a procedere sulla ricapitalizzazione. E non solo questa banca lo farà, questo aumento di capitale, ma lo farà praticamente il doppio rispetto a quello preventivato qualche settimana fa. Si parlava di 600 milioni di euro, invece metterà in campo un'operazione straordinaria sul capitale di 1.200 miliardi di euro, per cui insomma immaginate quella che può essere la reazione del mercato, che è molto negativa. La giornata di ribasso sulla Popolare di Milano porta con sé anche quella del Banco Popolare, meno 3 punti, e sono in difficoltà anche altri titoli bancari, UbiBanca, Monte dei Paschi, Unicredit, che perdono lo 0,2-0,3%, quindi un ribasso ma molto distante rispetto a quello della Popolare di Milano. I risultati di IBM ed Intel portano invece verso l'alto, STM più 6%, Fiat che oggi diffonde i conti più 4%, Buzzi più 3%, il governo boccia, rimanda, non si sa bene che cosa farà il nucleare, e quindi le rinnovabili oggi traggono da questa circostanza una forte spinta in borsa. E nel green power più 3, bene anche Eni più 2,20, Mediaset più 2, Telecom più 2, Generali più 2, Luxottica più 2. L'oro a 1501 dollari l'oncia, l'argento sulle piazze asiatiche stamattina nuovo massimo, salito a 44,50 dollari l'oncia, al massimo dal 1980. Questa è la situazione in questo momento, ma ripercorriamo un po' quello che è successo in borsa e sui mercati obbligazionari soprattutto negli ultimi giorni. Una settimana, quella in corso, che è iniziata in maniera a dir poco brusca sul fronte dei mercati finanziari nostrani ed oltreoceano, con le borse in caduta libera e i titoli di Stato che hanno allargato il gap nei confronti dei Bund tedeschi. Il fulcro di tutti i problemi si può individuare proprio nei conti pubblici. I mercati sembrano aver realizzato improvvisamente le tante difficoltà in cui versano molti paesi, con le risposte della politica che tardano ad arrivare. Una causa scatenante la si può senz'altro individuare nel bollino di rischio che per la prima volta Standard & Poor's ha assegnato all'economia americana, mettendo in forse il rating AAA per gli Stati Uniti. Di fatto, la segnalazione di una prospettiva non rosea, che dà atto delle serie preoccupazioni destate dai bilanci statunitensi. In Europa i riflettori restano tutti puntati sulla Grecia, sempre più in difficoltà, a giudicare anche dallo scetticismo sempre più diffuso nel vecchio continente in merito alle operazioni di salvataggio. Nel frattempo, come era prevedibile, schizzano i tassi di interesse sui titoli di Stato greci, arrivando per quelli a 10 anni oltre il 14,4%, per quelli a 5 al 16,3% e per quelli a 2 anni addirittura oltre il 20,5%. Una corsa delle cifre che non può passare inosservata, ma che i risparmiatori dovranno guardare anche con molta attenzione. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Peraltro stiamo già andando verso la chiusura della prima parte della nostra trasmissione, ancora un paio di minuti, allora faccio subito una riflessione con Marcello Esposito, direttore investimenti di Banca Patrimoni Sella. Voi che state sicuramente osservando in questo momento con grande attenzione al mercato, come facciamo noi, ma voi naturalmente gestite anche i risparmi delle persone, quanto preoccupa in questo momento la situazione greca, della quale parliamo ormai da un anno a fasi alterne con minore o maggiore preoccupazione? E secondo lei è della cordata di coloro che sostengono che questo paese ristrutturerà il suo debito? Qual è la vostra sensazione? Dunque, no, la Grecia è un campanello d'allarme continuo, che va, una situazione che va tenuta sempre sotto osservazione e sotto controllo, perché è lì che è nato il problema del debito sovrano in Europa, che è scoppiato, è emerso con evidenza, e quindi è lì che si sta combattendo la battaglia più importante. È difficile dire se si ristrutturerà o meno il debito greco. Se la situazione rimane confinata esclusivamente alla Grecia e altri due paesi, Irlanda e Portogallo, la mia opinione è che la situazione possa essere fra virgolette gestita attraverso gli strumenti che sono stati messi in campo in quest'ultimo anno. Quindi sostanzialmente l'Europa, la Banca Centrale Europea, essendo aiutati fra l'altro dagli sforzi fiscali enormi che la Grecia sta facendo, possono gestire la situazione. Il problema, come è emerso ancora questa settimana, anche indirettamente attraverso il downgrade del merito creditizio potenziale, l'outlook negativo sugli Stati Uniti, è che è una situazione abbastanza fragile, dove shock anche di media o piccola dimensione possono poi cambiare lo scenario. Quindi noi siamo fuori, se si ricorda anche l'ultima volta che siamo sentiti, siamo fuori sulle nostre gestioni patrimoniali dalla Grecia e dai paesi periferici ormai da parecchio tempo, da parecchi mesi, quasi, forse anche oltre un anno. Comunque proprio perché non riteniamo che la situazione su quel fronte sia su un sentiero chiaro di risoluzione, e di per cui preferiamo in situazioni come questa, ecco, tenerci un po' alla larga, e consigliamo di fare lo stesso per coloro che non hanno, ecco magari, soprattutto i piccoli risparmiatori, esatto, che magari così si inventano di investire solo su un titolo e rendimento particolarmente, esatto, elevato. In realtà riflette un rischio, il mercato non regala mai nulla, insomma, prezzo riflette un rischio effettivo. Esposito, devo andare già in pausa, però una cosa vorrei che me la specificasse: siete fuori dai paesi periferici, per cui nei vostri portafogli non c'è neanche un titolo italiano? No, il titolo italiano, l'Italia ormai è un po' a metà strada, fortunatamente. Non è nei PIGS, ma nei periferici ogni tanto, esatto, ci finisce in questa definizione. No, per fortuna l'Italia è in una situazione ancora così, riesce a navigare bene in questa situazione, nonostante appunto una condizione di finanza pubblica che deve essere anche lì, messa, sia quella che è quella che è. Allora ci fermiamo, chiedo un attimino di pazienza ancora a Luca Bagato, poi ritorno anche da lui, perché ci faremo spiegare cosa implica una ristrutturazione, visto che tra l'altro lui prima mi raccontava che ha vissuto anche quella russa, per cui ci sono tante implicazioni da spiegare bene ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24 per intervenire, e ci risentiamo tra pochissimo. Allora, d'accordo nel non comprare Grecia, ma chi li ha già presi questi titoli a prezzo pieno nel marzo del 2010, cosa deve fare? Ci scrive un ascoltatore che non si firma, un altro dice: ho comprato bond greci 2019, scadenza 2019, al valore nominale di 97, cosa fare adesso? Luca Bagato, nostro trader specialista sui mercati obbligazionari, adesso cercheremo di dare se possibile qualche indicazione a questi ascoltatori, però prima volevo chiarire un altro aspetto, perché in questi giorni fioccano su tutti i giornali appunto il racconto dell'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato greci. Abbiamo visto che il decennale è arrivato a quotare oltre il 14% ai massimi della nascita appunto dell'euro, naturalmente il biennale addirittura viaggia ad un passo dal 20% di rendimento. E poi leggo che però alcuni esperti, anche colleghi del Sole 24 Ore, spiegano che sono rendimenti del tutto teorici, perché quello di cui parliamo è un mercato assolutamente non liquido in questo momento. momento, perché la Grecia non può andare sui mercati in questa fase. E poi leggo ancora questa mattina una cosa che è successa ieri, che comunque il tesoro greco ha organizzato un'asta del tesoro, ha emesso titoli trimestrali sui quali ha dovuto riconoscere tassi di interesse del 4%, l'asta precedente aveva visto rendimenti al 3,85%, e comunque questa asta è andata discretamente bene. Quindi io mi chiedo, allora, la Grecia in questo momento sta emettendo dei titoli di Stato, sta andando sul mercato o no? Perché mi sembra veramente che ci sia un po' troppa confusione anche su questi punti. Bagato. Allora, la Grecia sta andando sul mercato, nel senso che comunque alcune emissioni sono garantite dai fondi della Comunità Europea e dal Fondo Salva Stati, ed è quello che è successo ieri con l'asta dei bond. Purtroppo la Grecia non può andare sul mercato su titoli più lunghi rispetto all'asta bond, perché in questo caso deve comunque avere beneplacito di entrambe le istituzioni, e chiaramente i rendimenti in questo momento sconsigliano un'esposizione sul primario per così lungo tempo. Quindi si finanzia nel brevissimo termine, perché ci sono anche le banche greche che continuano col finanziamento europeo a comprare questi titoli di Stato, ma non potrebbe teoricamente mettere titoli decennali? Esatto, nel senso che chiaramente, diciamo, l'accordo con cui la Grecia ha ottenuto il salvataggio era un accordo che prevedeva una possibilità di continuare a mettere a breve, anche perché le banche, oltretutto greche, nel breve termine sono finanziate attraverso pronti controtermine che la stessa banca centrale greca mette a disposizione, quindi è un po' un ciclo vizioso che si crea. Chiaramente da un lato la banca centrale emette, diciamo, fa in modo che la liquidità possa circolare, e quella liquidità dalle banche viene utilizzata per investire anche in titoli a breve, che probabilmente servono per finanziare l'attività, diciamo, il capitale circolante delle banche. Sul lungo termine invece in questo momento la situazione è bloccata, e in qualche modo, o meglio, potrebbe essere fatta in futuro, ma per il momento è, se vogliamo, congelata, ecco il termine più corretto. Quindi, diciamo, quello che è congelato, ecco, è l'attività del mercato primario, perché sul secondario ancora titoli decennali invece sono quotati, Bagato. Assolutamente, ecco. Sì, infatti bisogna sempre distinguere due cose. Cioè, questo è un problema di primario, perché chiaramente la Grecia si trova a pagare rendimenti talmente elevati, tanto per dare un'idea, sta pagando due volte i rendimenti che paga Sudafrica, che fino a pochi anni fa era considerato uno dei mercati più difficili da trattare sul mercato emergente. Ovviamente si sconsiglia alla Grecia di emettere a questi livelli, perché chiaramente i costi poi del pagamento della, diciamo, la componente di interessi per quanto riguarda lo Stato sarebbero troppo elevati. Però il mercato secondario continua a scambiare, chiaramente. Interessante questa situazione, come ha correttamente informato all'inizio della trasmissione, abbiamo appunto due anni che è molto vicino al 20%, 10 anni a 14, la curva è invertita di fatto, cioè abbiamo rendimenti più elevati sul breve rispetto al lungo, e questa è una caratteristica normale di paesi che vanno verso un rischio, non dico di fallimento, ma quantomeno di ristrutturazione, cioè la ristrutturazione è vista nel breve. Infatti si parla di un termine che i mercati in questo momento stanno considerando abbastanza omogeneamente intorno al 2013 per ristrutturare il debito, e veramente poi nel lungo termine invece i problemi vengono visti in maniera un pochino più attutita, e questo fa sì che il rendimento breve scoprirà le lunghe. Allora, Marcello Esposito, torno da lei, adesso andremo anche ai nostri ascoltatori. Guardi, siccome la domanda che volevo farle è esattamente quella che invece vorrebbe fare Paolo da Verona, lo sentiamo direttamente, quindi lo faccio molto volentieri sostituire a me. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Ecco, magari forse parte della risposta che volevo alla domanda che volevo fare l'avete data nei momenti tra la mia chiamata e adesso. Comunque, io volevo sapere cosa si intende con riferimento soprattutto all'esempio pregresso dell'Argentina, cosa si intende per un paese europeo ristrutturazione del debito. E poi l'altra domanda che mi sembra aver capito la risposta: come mai i titoli a durata maggiore, che di solito hanno un rendimento maggiore, qui si invertono i ruoli, ma mi sembra aver capito perché sono poi rendimenti teorici, in quanto non c'è liquidità e quindi non c'è proprio un mercato funzionante come dovrebbe funzionare. E infatti, anche questo, Paolo. Ha terminato? Posso andare ai nostri ospiti? Poi volevo, forse vado fuori dal seminato, non so se l'interlocutore... con riguardo anche si poteva fare una domanda riguardo ai titoli bancari italiani, ma forse titoli bancari di che tipo, azionari o obbligazionari? No, azionari. Cioè, adesso vediamo. Volevo sapere alla luce di tutti questi aumenti di capitale, questo disastro generalizzato, che senso ha parlare ancora di Basilea 2, anche perché mi sembra che si stia andando proprio nella direzione opposta. Si va verso la 3 e diciamo che le ricapitalizzazioni sono finalizzate proprio al rispetto dei requisiti di quei parametri. Paolo, adesso vediamo se riusciamo anche a fare un commento sul tema bancario italiano, un tema che abbiamo già affrontato settimana scorsa parlando proprio anche, abbiamo fatto l'ultima puntata venerdì sulla distribuzione delle cedole che sono piuttosto interessanti anche proprio per i titoli del settore bancario, poi contestualmente le banche devono invece procedere sulla strada degli aumenti di capitale. Magari la accantoniamo per ultima, se i nostri ospiti vorranno rispondere, Bagato è uno specializzato sul mercato obbligazionario, magari ci faccio sbizzarrire Esposito. Prima però Marcello Esposito, parto con lei sulle prime due domande dell'ascoltatore. Allora, uno Stato sovrano teoricamente non va in bancarotta, cioè ci va teoricamente e poi non ci va praticamente, si possono verificare quelli che si definiscono default tecnici, poi però chiaramente il debito rimane in piedi e questi stati devono onorarlo in qualche maniera, solo che praticamente allungano a dismisura le durate dei loro titoli. Sì, questa è la ristrutturazione, mi pare. Sì, le ristrutturazioni del debito prendono molte forme, si va dall'allungamento della scadenza, quindi i titoli a più breve scadenza vengono allungati, nel senso che viene posposto il momento della restituzione del capitale, ma continuano a pagare le cedole. Si può concordare con i creditori una riduzione dell'ammontare delle cedole, questa è un'altra forma di ristrutturazione, fino ad arrivare, diciamo, alla forma più estrema, che è la riduzione dell'ammontare nominale dell'obbligazione. Questa, diciamo, è anche la forma che spaventa di più il mercato per le conseguenze poi che ha anche da un punto di vista psicologico sugli investitori. L'haircut praticamente è proprio un taglio di capelli, esatto, radicale, che lo spiega molto bene anche per chi fosse interessato, Isabella Bufacchi stamattina sul Sole 24 ore. Sì. Certo. Quindi sono le tre forme particolari. Nel caso, quindi, ecco, bisogna però capire che il debito greco non è soltanto come di qualunque Stato, ma anche di altri, non è soltanto in forma di obbligazioni di titoli di Stato, è anche il debito che per esempio la Grecia sta accumulando nei confronti delle istituzioni europee, degli altri paesi che sono intervenuti in suo soccorso a partire dallo scorso anno. Quindi la mia opinione personale è che è più probabile che la ristrutturazione del debito greco avvenga nei confronti delle istituzioni europee che non sul debito pubblico greco, quindi sulle obbligazioni che sono in mano agli investitori privati o alle banche in Europa. Questo se il problema è contenuto appunto ai tre paesi di cui parlavamo prima e se la Grecia continua sul sentiero di probità fiscale che ha intrapreso con decisione. Per esempio, è passato, diciamo, forse non è stato notato, diciamo, dal grande pubblico, ma le scadenze del debito greco sono state allungate, di questo debito nei confronti delle istituzioni europee, dei paesi europei è stato allungato, è stato deciso recentemente di ridurre il tasso di interesse appunto su questo debito. Questa è, possiamo definirlo, una forma di ristrutturazione, ma è una forma di ristrutturazione assolutamente indolore nei confronti appunto degli investitori privati, e di conseguenza io penso che questa sia la strada più semplice da percorrere rispetto invece a una strada dove si va a intervenire su obbligazioni detenute, come dicevo, da privati, con conseguenze, fra l'altro, visto che sarebbe il primo paese sviluppato, è la prima volta che accade all'interno della Comunità Europea, quindi con dei risvolti anche solo legali difficilmente immaginabili, quindi penso che si farà il possibile appunto per evitarla. Per evitarla. Ecco, tra l'altro, proprio a proposito delle implicazioni di natura legale, a differenza appunto di quelle finanziarie, è un tema con i quali mi vorrei intrattenere anche con Luca Bagato, però credo che a questo punto possiamo farlo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Poi sentiremo anche Paola Emilia da Cinisello Balsamo, a tra pochissimo. C'è un ascoltatore che ci scrive: ho acquistato bond a 2034, pagati 84, oggi valgono 58, datemi un consiglio. Io però, guardando la rosa dei 20 circa titoli greci quotati al segmento dei titoli di Stato appunto di borsa italiana, questa scadenza non la vedo, ne vedo una 2037, un'altra 2040, questa scadenza non la vedo, quindi vorrei capire se è greca. Detto questo, Luca Bagato, allora, in una eventuale ristrutturazione, visto che lei mi raccontava prima della trasmissione del fatto che ha vissuto direttamente anche la ristrutturazione del debito russo che si è verificato nell'agosto del 98, un default su titoli di Stato domestici per un debito interno di 40 miliardi di dollari dichiarato appunto 13 anni fa, e solo nel 2010 la Russia è riuscita a ritornare sul mercato dei capitali, Mosca è riuscita a ritornare sul mercato dei capitali. Una ristrutturazione che implicazioni di natura legale comporta e che dovrebbe interessare anche eventualmente piccoli risparmiatori che hanno in mano questi titoli? Nel caso russo il vero problema furono tutti i contratti che in realtà erano stati in qualche modo siglati tra le banche europee, in particolar modo le banche russe, per progetti di finanziamento di attività reale, quindi dall'acquisto di case a finanziamento all'industria piuttosto che l'export nei confronti di aziende ad esempio italiane. Chiaramente quando c'è una ristrutturazione, quindi fondamentalmente il valore del collateral, quindi messo a garanzia, e solitamente il collateral si intende appunto la quota di titoli di Stato che fondamentalmente le banche poi mettono a garanzia dei prestiti che si scambiano tra di loro, e quando chiaramente questa quota tende a scendere, perché come diceva giustamente Esposito precedentemente, una delle opzioni della ristrutturazione potrebbe anche essere quella del RCAT, come fu appunto nel caso anche della Russia, e questo crea chiaramente un problema, perché le garanzie poste chiaramente sotto, diciamo, i prestiti divengono garanzie più basse. E quindi una ristrutturazione richiede comunque una serie di arbitrati, perché tra le varie controparti coinvolte bisogna raggiungere un accordo su quelli che sono dei termini che in qualche modo si presentino omogenei per entrambi. Pensiamo al caso ad esempio di derivati con magari sottoscrizione di asset swap tra titoli di Stato greci e appunto lo swap magari in euro. È il caso di un allungamento della durata del titolo sottostante, non necessariamente allunga la durata dello swap, per cui comunque a livello di contrattualistica bisogna in qualche modo metterci mano con un arbitrato e raggiungere un accordo tra le controparti, altrimenti il sottostante sarebbe chiaramente dichiarato nullo, perché il contratto non rispetta più i termini con cui è stato siglato, oppure nel caso di CDS, quindi prodotti a garanzia proprio del rischio di default, che vengono più delle volte siglati per un periodo di tempo di circa 5 anni, almeno per quello che è il mercato normale, ma che sottostante hanno più delle volte lo scambio anche di titoli nel caso di un evento di credito. Quindi qua paradossalmente, se non allunghiamo la durata dei titoli e poi facciamo scattare un evento di credito che richiamerebbe la copertura con i CDS, questo chiaramente potrebbe creare una situazione paradossale in cui il titolo sottostante non è più lo stesso e non può più essere utilizzato per lo scambio dei CDS. E questo chiaramente crea un problema. Ecco, visto che allora ci sono delle implicazioni di portafoglio economiche, finanziarie, ma anche legali, come abbiamo sentito appunto da Luca Bagato, io chiedo a lei, a tutti gli ascoltatori che hanno in portafoglio questi titoli, comprati anche in momenti in cui già la condizione greca stava risultando traballante, e parlo di un anno fa, adesso chiaramente in conto capitale le perdite si cominciano già a vedere e sono significative, adesso a patto che questo mercato sia liquido, che sia anche facile disfarsi di questi titoli, lei che cosa farebbe? Se ne disferebbe anche a costo di aver perso un bel po' in questo periodo, oppure, come dire, coronarie permettendo, resisterebbe? Lei chiaramente ha anche la mentalità del trader specialista, per cui le sue coronarie sono messe, come dire, in movimento ogni giorno, però... Ma io allora ho sempre questa è la mia strategia, avrei agito prima, ecco, però col senno di poi faccio le parole, avrei agito prima nel senso che mi do delle regole di disciplina, è quello che anche faccio quando faccio advisor ad esempio per dei fondi, uno in particolar modo che sto seguendo proprio per il comparto dei global govies della famiglia Denium per quanto riguarda Sopas SGR. Allora il mio limite, come ha correttamente detto Esposito, è lo stesso, cioè per me il rischio italiano forma la vetta massima del rischio sostenibile, oltre a quello chiaramente non vado, per cui se la Grecia comincia a superare il rischio italiano, e ahimè purtroppo questa è una storia già di ben più di quasi 2 anni fa, automaticamente la Grecia chiaramente esce dal basket dei titoli investibili. Mettiamo invece che sia stato un investitore più aggressivo e abbia mantenuto la Grecia in portafoglio, il mio suggerimento comunque, visto la confusione della situazione, è almeno metà della posizione venderla adesso, perché chiaramente non si può correre il rischio di una ristrutturazione, perché non sappiamo cosa questo possa implicare, né tantomeno se la ristrutturazione mai ci sarà, per cui rischiamo magari di avere dei titoli che per molto tempo rimangono a questi livelli con delle cedole che poi alla fine ogni volta che devono essere pagate creeranno un patema d'animo. E l'altra metà della posizione la tengo in portafoglio, e se per caso chiaramente c'è un miglioramento della situazione la venderò più avanti, oppure rischio meno con questa posizione dimezzata. Ricordando però che il rischio maggiore c'è a breve termine, perché la maggior parte di investitori tendono ad utilizzare questa caratteristica di tentare di vendere i titoli più lungo termine perché sono percepiti più rischiosi e di mantenere in portafoglio i titoli a breve termine. Questo è successo ad esempio a un sacco di clienti che noi seguivamo anche nel 2001, purtroppo, quindi istituzionali, quindi parlo da appunto trader specialista sugli emergenti, purtroppo non è così, cioè molti fondi determinano in portafoglio argentino 2001 sul breve, e poi in realtà sappiamo bene come è andata a finire la storia dell'Argentina, era molto meglio che paradossalmente deve tenere il portafoglio. Guardi, Bagato, le faccio sentire cosa vuole fare Luigi da Monza, che adesso io bacchetto sulle mani. Luigi, buongiorno. Buongiorno signora. Io ho forse avuto la sfortuna di venderli questa settimana. La sfortuna? Perché a questo punto qua non si capisce più niente. Tutti i rumor che ci sono stati invogliavano a vendere, tra quello che diceva Schöbel, tra tutte le altre cose, per sfinimento. Non mi dico che sono costretto, però ho optato per la vendita e ci ho rimesso parecchi soldi. E quindi adesso cos'è che mi suggerite? Di ricomprarli un'altra volta, perché ormai sembra che sia congiurato il... Allora Luigi, sì, infatti è un atteggiamento proprio del, come dire, del mediare, come si fa in borsa, no? Vendere sulla perdita e poi magari ricomprare sulla debolezza per verificare se questo titolo ricresce, quindi recuperare le perdite della vendita precedente. Marcello Esposito, allora abbiamo visto come, questa in realtà non è la prima volta che la sento in questi giorni, il titolo di Stato greco ormai è veramente equiparato ad un'azione. È difficile dare una risposta, nel senso, se se lui se ne è già liberato, io anche perché abbia la tentazione di ricomprarselo di nuovo non lo capisco, però sì, vabbè. Cioè nel senso che fra l'altro è così, diciamo, da un punto, se si avesse una strategia precisa, come diceva il collega prima, uno, diciamo, alloca una parte del proprio patrimonio agli investimenti più rischiosi, che possono essere la Grecia, come possono essere altri titoli di aziende particolarmente rischiose, e segue la sua strategia. Però mi sembra di percepire, perlomeno non so se dal radioascoltatore, ma comunque da molti altri clienti retail, soprattutto che arrivano addirittura a liquidare la posizione interamente, che in realtà quel rischio non sia così sopportabile. Siccome la volatilità dei titoli greci continuerà a rimanere estremamente elevata ancora per parecchi mesi, se non ancora fino all'intero 2013, quando poi si capirà esattamente che cosa succede, perché poi nel 2013, ricordiamo, a giugno entra il nuovo sistema di supporto ideato dalla Comunità Europea, dove appunto si deciderà a quel punto se estendere gli aiuti senza chiedere la ristrutturazione oppure obbligare la Grecia alla ristrutturazione. Quindi fino al 2013 io temo che sulla Grecia si continuerà a ballare, per cui l'episodio della settimana scorsa continuerà a ripetersi nelle settimane, avremo fasi di calma alternate a fasi di... Quindi se non si è in grado di sopportare questa volatilità è meglio starne fuori. No, ma poi mediare con che cosa? Con un tasso biennale che adesso viaggia al 20%, potrebbe arrivare al 25% la settimana prossima, quindi fargli accusare di nuovo perdite in conto capitale, per cui effettivamente io credo che una volta che è fuori, una persona, a meno che davvero non voglia mettersi a mettere sull'otto volante il proprio portafoglio, non lo so, Esposito, ho fatto un ragionamento sbagliato proprio da Alice nel Paese delle Meraviglie. No, è corretto, cioè, come dicevo, con che cosa appunto... media? Se stiamo parlando di investitori retail, nel momento in cui si è deciso, toccando con mano che quel tipo di volatilità lì non viene considerata sopportabile, è inutile rimettersi dentro appena la situazione sembra migliorare, perché sul fronte Grecia la situazione rimarrà così volatile, così fragile per ancora parecchio tempo. Quindi Esposito, visto che lei aveva toccato l'argomento all'inizio, poi magari adesso ci rimangono un paio di minuti prima di chiudere, però molti ascoltatori chiedono rassicurazioni e commenti sulla situazione italiana, allora faccio parlare per tutti Paolo Emilia da Cinisello Balsamo, che saluto. Paolo, buongiorno. Allora, innanzitutto lei sappia, signora sì. stimatissima, che io la passione la sento tanto la vostra trasmissione. Grazie. Allora, la mia domanda è questa. Io ho un piccolo gruzzoletto che ho messo tutto nei titoli di Stato, mm-hmm. no? E naturalmente adesso non sono più tanto tranquilla, perché con un debito che abbiamo noi di 120 e passa, insomma, la situazione comincia a essere un po', no? Precaria. Un po' precaria. Però insomma, Paola, chiedo, questa condizione l'Italia la vive da un sacco di tempo, quindi c'è abituata. Detto questo, poi molto debito ce l'abbiamo noi italiani, e quindi questo è stato un aspetto che ha sempre un po' rassicurato molto. La chiudo brutalmente solo perché mi mancano 40 secondi, Paola, e vorrei far parlare almeno 10 secondi a testa entrambi gli ospiti. Nel mezzo di questa crisi l'Italia, Luca Bagato, si sta comportando quasi come un paese dai conti pubblici virtuosi. Questo può rassicurare i nostri ascoltatori? Ma io direi di sì. L'Italia ha già vissuto nel 94, anche quella volta ero coinvolto, una situazione molto simile a quella Grecia. Abbiamo cambiato diversi governi per questa ragione. L'Italia ha sempre avuto però una gestione del debito pubblico e soprattutto delle manovre correttive per aiutare il debito pubblico impeccabile. Direi che ha fatto scuola, anzi molti, diciamo, funzionari del Tesoro americano hanno imparato dai nostri funzionari come gestire al meglio il debito pubblico quando è notevolmente aumentato dopo il periodo reaganiano. Per cui devo dire che l'Italia si presenta bene, speriamo che chiaramente sia, non sia un problema politico, ecco, per il futuro, ma no, finché i governi non rimangono un problema, non sono un problema di fatto da gestire per il futuro. Basti vedere anche i rendimenti che deve riconoscere lo Stato italiano per piazzare i suoi titoli di Stato sulla scadenza annuale. Siamo ancora ad un tasso inferiore al 2%. Io credo che anche questo dia indicazione di serenità. Ma magari, se vorranno i nostri ascoltatori, ci dedicheremo solo all'Italia in una puntata nei prossimi giorni. Io intanto ringrazio molto Luca Bagato e Marcello Esposito per essere stati con noi, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti per l'assistenza tecnica, sempre sorridente. Roberto, grazie a tutti, noi torniamo domani, buona giornata a tutti.